E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria alla vigilia di quello che può essere anche per alcuni, non per noi, il ponte dell'Epifania. Le borse oggi sono più caute e calme, devo dire però soprattutto Milano, perché Milano perde lo 0,1, peggio fa nettamente Parigi, meno 0,7 e anche Francoforte, meno 0,8, invariata invece l'America, Londra più 0,2%. L'euro è in leggero indebolimento a 1,3140. Volete subito sapere di Fiat e vi accontentiamo subito. Dopo il botto di ieri per Fiat SPA, continua la Fiat Auto, come la chiamiamo noi, a crescere. Adesso è a 7,64 euro, in rialzo del 2,2%. Continua invece a calare la Fiat dei camion e delle macchine a movimento terra, dei trattori, ossia Fiat Industrial, meno 1,6%, in questo caso a 8,65 euro per azione. Chi va bene oggi oltre a Fiat? Telecom Italia più 3,20, Diasorin più 2,7, ST Microelectronics più 2,2 e anche Eni più 1,3%, Mediolanum più 1 come Luxottica. Chi cede? Beh, Buzzi Unicem quasi il 3%, Bulgari di nuovo in flessione. Il lusso oggi meno 2%, Intesa San Paolo meno 1,80, di Fiat Industrial l'abbiamo già detto, Pirelli meno 1,3, Popolare di Milano meno 1 come Enel e Generali, Ansaldo meno 0,90% come anche Unicredit e infine Mediaset cede lo 0,7%. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, dopo qualche giorno di pausa anche dovuta alle festività e Capodanno torna il tema dei debiti di alcuni paesi europei. Dopo aver liquidato la Grecia e aver liquidato in qualche modo l'Irlanda, nel senso che l'Europa ha dovuto salvare con 85 miliardi di prestito a disposizione, l'Irlanda ancora alle prese con le due banche, soprattutto la Lloyd Irish Bank, dicevo, tutti si interrogano se vi saranno dei prossimi fronti, e i prossimi fronti si chiamano Lisbona in questo momento e Spagna nell'altro caso. Ebbene, alla Spagna è venuto in aiuto la Cina, che oggi tra l'altro, secondo un quotidiano europeo, insomma, hanno fatto il calcolo di quanta parte del debito europeo è in mano cinese, il 7%. Ma lo dico perché alcuni ancora pensano che la Cina si possa combattere con i dazi. La Cina si sta comprando i nostri debiti pubblici, quindi poi è difficile andare a dire qualcosa a qualcuno che ti presta i soldi, nella vita in generale, quindi anche nella finanza pubblica. Già si è comprato un terzo del debito americano, si sta comprando anche per ora un decimo dei nostri debiti, e poi come fai a contrastare qualcuno che ti presta i soldi? Domanda. Dicevo, la Cina non solo continua a comprare debito spagnolo, oggi è stata anche emessa un'obbligazione europea, o meglio un'obbligazione da 5 miliardi di euro con scadenza a 5 anni per raccogliere soldi per gli irlandesi. Ebbene, è stata comprata in un'ora. Questa dimostrazione che forse il progetto delle obbligazioni europee del ministro Tremonti, gli Eurobond, non è un progetto così inapplicabile. In un'ora tutti venduti, 5 miliardi oggi messi all'asta. Di questo parleremo in apertura, poi ripeto la borsa, poi una vicenda che ci ha molto incuriosito, come quella del comparto del vetro di Murano, che per carità non è un comparto di quelli che cambiano l'economia italiana, sono 2000 addetti, meno di 200 milioni di euro di fatturato, però è un comparto simbolo, sotto scacco per la concorrenza cinese, di nuovo la Cina. Pensate che 3 vetri su 4 venduti a Venezia sono fabbricati o in Cina o fuori da Murano, ma c'è una sentenza che dà ragione ai vetrai muranesi, non solo contro i falsi ma anche contro chi commercializza e quindi li vende nel negozio in altre forme. questi falsi. Una cosa ancora più interessante, di questo ci occuperemo anche con uno dei massimi esperti di copyright, e poi l'intervista all'azienda in cui si lavora meglio secondo la classifica che ogni anno viene fatta. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve. Dunque, alcuni ascoltatori mi segnalano che ho detto leggero indebolimento del dollaro, chiaramente è un refugio, chiedo bene, è un leggero indebolimento dell'euro sul dollaro a 1,3142, ma ripeto, quota 1,31 è una quota che non permette, lo diciamo spesso, di definire l'euro come debole. E mi dispiace se qualcuno non è d'accordo. Allora, dicevamo, al di là delle emissioni di cui adesso ci occuperemo, di 5 miliardi di euro da parte dell'Europa, il petrolio in calo, sempre vicino a 90, 88 e 99, e invece a New York è andato ancora un po' più giù, verso 88,4, ma insomma siamo sempre lì. Non calano invece, anzi continuano i rialzi della benzina. La verde sopra 1,48 euro, il diesel sopra 1,365 rispettivamente alla Total Erg e alla Shell. Schizzano, ieri abbiamo dedicato ampio spazio alle materie prime, anche di genere non industriale, quindi quelle alimentari. Ebbene, oggi la FAO ha reso noto che sono schizzati ai massimi storici i prezzi di materie prime alimentari che servono proprio per i paesi in via di sviluppo o in alcuni casi ancora non sviluppati. Perché lo dico? Perché il paniere della FAO, quello che è composto da grano, riso, carne, prodotti del latte e zucchero, pensate che è balzato a dicembre al livello massimo da sempre, 214 punti, più 4% rispetto a novembre. Però, nel frattempo da noi la Coldiretti dice: attenzione, i prezzi del grano sono meno 40% dai picco che avevano toccato durante la crisi del 2008. Queste le quotazioni del Chicago Board of Trade, i prezzi, come anche risposta alla FAO, dice: no, attenzione, il grano è a 8 dollari per bushel, che è l'unità di misura delle materie prime, come il grano, sarebbero 22 centesimi al chilo, e siamo al 40% in meno rispetto alla primavera del 2008. Passiamo agli Stati Uniti. Calano, anche se continuano ad esserci, i licenziamenti negli Stati Uniti. Secondo il sondaggio che viene effettuato ciclicamente da Challenger Gray e Christmas, sono calati del 59% i licenziamenti nel 2010 rispetto al 2009, tant'è che il settore privato americano nel 2010 ha perso il minor numero di posti. Sembra una contraddizione, cioè c'è stata la disoccupazione, ma il numero di posti persi è stato il minore dal 1997. E conferme che l'economia americana tutto sommato si stia riprendendo arrivano anche da un altro indice, quello dell'indice ISM servizi. È salito a 57 punti, con l'incremento più forte dal maggio del 2006. Ancora, va abbastanza bene lo stesso indice, quello relativo però alle piccole e medie imprese in Europa. Crolla in Italia, e obiettivamente il dato ci ha lasciato sorpresi. L'indice PMI infatti si è attestato a 59 punti in Germania, 54 in Francia. A sorpresa, crollo dell'attività in Italia, 50 punti contro il 54 di novembre. E adesso passiamo al tema di apertura tra un attimo, però, perché qualche dato lo vogliamo dare, praticamente riguarda la vicenda Fiat. Anzi no, facciamo una cosa di Fiat, parliamo se riusciamo dopo i mercati. Non ci sono molte novità, praticamente la società Fiat Industrial, che controlla appunto i vecchi CNH, ha annunciato la nuova struttura organizzativa, ha varato l'Industrial Executive Council, è arrivato il voto da Moody's, un BA1 a Fiat Industrial con prospettive stabili. Venerdì 14 gennaio, ve l'hanno già raccontato i nostri GR, vi sarà il referendum su Mirafiori. E quello che ha detto Landini, che contrario la Fiomma al referendum, però ha detto ma insomma non chiediamo a nessuno di fare l'eroe. Noi abbiamo assolutamente intenzione di andarle a fare le assemblee. Pensiamo che se ciò non avvenisse per le altre organizzazioni sarebbe un fatto grave nel rapporto con i lavoratori, perché vorrei ricordare che questa pseudo trattativa è stata fatta a fabbrica chiusa. L'accordo è stato fatto quando loro non ci sono, i lavoratori il primo giorno davvero che rientrano tutti in fabbrica è il 12 di gennaio. Credo che sarebbe rispettoso nei confronti dei lavoratori spiegargli cosa è stato fatto. Se qualcuno dice che è un buon accordo, sarebbe utile che si assumesse la responsabilità di dire ai lavoratori perché lo considera un buon accordo. Noi, per quello che ci riguarda come FIOM, le assemblee abbiamo assolutamente intenzione di andarla a fare. Siccome le possiamo ancora convocare, noi in ogni caso, prima del voto dei lavoratori, andremo a spiegare perché per noi quell'accordo non è accettabile, perché non intendiamo firmare quell'accordo e discutere assieme a loro come si affronta una situazione del tutto inedita, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciare soli né i nostri iscritti né i lavoratori di Mirafiori. Allora, così Landini, segretario generale della FIOM. Adesso noi parliamo invece dei debiti europei, di chi anche li sta salvando. Mamma mia, come si arrabbiano alcuni ascoltatori, da quello che scrivono immagino leghisti, ma poco mi interessa che votino destra o sinistra. Ogni volta che si tocca la Cina il problema è tra, mettiamola così, tra il desiderio e la realtà. È un po' come se uno volesse conquistare una certa donna, però poi dovesse rassegnarsi ed averne altre. E lo dico molto chiaramente, perché non è che se noi ricordiamo la potenza della Cina, il fatto che lei stia dettando le regole del gioco, che si sia comprata un terzo del debito americano, che stia salvando Irlanda e Portogallo, che sta spostando la produzione sulle fasce alte, che l'India ha 15.000 ingegneri all'anno, non è che vogliamo difendere o tifiamo Cina, tifiamo India. Anche a noi piacerebbe che il futuro fosse quello di una volta per i nostri giovani, che non ci fosse la concorrenza cinese, che l'Italia con un po' di svalutazione della liretta potesse continuare a occupare i mercati, ma non è così. Vogliamo capire o non vogliamo capire? È inutile scrivere viva i dazi alla Cina, non sei contento dei cinesi, Barisoni, sei la quinta colonna di Pechino in Italia, ma per favore. O magari continuate a non guardare quello che è in questo momento il problema della Cina e continuiamo a produrre prodotti che poi vengono espulsi dal mercato perché costano troppo e poi si compreranno anche le nostre aziende. Cosa devo dire? Poi ne parleremo fra qualche anno, perché io già ricordo chi sosteneva 3-4 anni fa i dazi verso la Cina. Intanto vediamo cos'è la realtà dei fatti, piaccia o non piaccia, la vita non si costruisce a nostra somiglianza. La Cina ha il 7% di tutto il debito pubblico europeo, lo scrive il quotidiano economico francese La Tribune, 7,3%. Sapete quanto vale l'investimento cinese in Europa? Lo dico a quelli che pensano che i cinesi vengano qua a mangiare riso: 630 miliardi di euro ha messo la Cina a comprare i nostri debiti. E allora, vogliamo prenderne atto o no? E chi li abbiamo noi, 630 miliardi? Non abbiamo neanche 6 di miliardi, Tremonti non riesce neanche a trovare 6 miliardi di manovra aggiuntiva. Di che stiamo parlando? Nel frattempo la Grecia ha raggiunto il massimo di livello di rischio fotografato da quello che è la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e un'obbligazione tedesca. Siamo tornati a 974 punti, cioè il 9,74% di differenza, che vuol dire che se un'obbligazione tedesca rende l'1%, l'obbligazione equivalente greca rende il 10,7%, è il livello più alto storico. Il Portogallo ha collocato in asta anche mezzo miliardo di euro di obbligazioni con scadenza a luglio, buona la domanda, ma ha dovuto offrire l'1,6% in più rispetto a settembre, cioè a settembre erano bastato, era bastato il 2% di tasso di interesse per trovare dei compratori per il debito, adesso il Portogallo ha dovuto offrire il 3,7% per trovare qualcuno che gli comprasse il debito. Ci spiega per favore perché i cinesi comprano i debiti europei? Perché hanno molta liquidità e perché li ritengono non così rischiosi, e perché quando compri, quando fornisci dei soldi, presti dei soldi a qualcuno, possiamo dire tutta, un po' te lo compri. Antonio Pollo Salimbeni, contestami pure, corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore da Bruxelles, buon anno. Buon anno a voi. Allora, sei da, sono la quinta colonna cinese, la quinta colonna di Pechino, no, a dentro Radio 24, vabbè. No, questo non credo, ma in ogni caso il problema è esattamente quello che avete sintetizzato, il fatto che la Cina abbia ribadito anche oggi attraverso il vice premier in visita a Madrid, il vice premier cinese Li Keqiang, che ha confermato che sosterrà la Spagna comprando anche titoli del debito pubblico spagnolo, dopo che il governo cinese si era impegnato, aveva annunciato che avrebbe aiutato l'Irlanda, avrebbe aiutato anche la Grecia nella stessa direzione, è la conferma che in un momento in cui ci sono grandi emissioni di titoli di debito pubblico nazionale, scatta l'emissione Eurobond per trovare i capitali che poi devono essere prestati all'Irlanda e alla Grecia, più compratori ci sono di rango, con soldi, con liquidità, con riserve da investire nel mercato, e meglio è. La Cina ce le ha e quindi le gioca. La Cina è l'unica che li ha in questo momento i soldi, a parte qualche paese produttore di petrolio dell'OPEC, che infatti abbiamo dei fondi come Budala che sono potentissimi. Però mi fa specie una cosa, io adesso vorrei fare un gesto scaramantico, tanto in radio non si vede, ma noi siamo tranquilli che l'attacco al Portogallo non avverrà, che non vi sarà nessun attacco al debito spagnolo e che men che meno arriverà mai un attacco al debito italiano. Ma immaginate per un secondo se dovesse arrivare un attacco al debito italiano e dovessimo essere salvati da chi ci compra le obbligazioni, magari la Cina, come sta facendo con la Spagna. Cosa facciamo? Li trattiamo ancora con la puzza sotto il naso? Cioè preferiamo far saltare il piatto o farci prestare i soldi dai cinesi? Questo chiedo, siccome pecune non ho, let, questo mi interessa. E poi vorrei sapere da alcuni che scrivono, immagino in maniera lungimirante, se arrivasse il compratore cinese e offrisse tre volte il valore della loro azienda che ha difficoltà, che non riesce a stare sul mercato, cosa farebbero? Perché questo è il punto. C'è chi ha i soldi in questo momento e li vuole investire e si chiama Cina, c'è chi i soldi non li ha e ha le pezze nelle parti più delicate del corpo e ne ha bisogno e si chiama Europa, nel caso specifico Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e ho dimenticato qualcosa. Comunque 5 miliardi collocati oggi, benissimo l'asta, Antonio. Sì, l'asta è andata benissimo. Volevo aggiungere, se mi permetti, una cosa sulla Cina per chiudere il discorso. Lo stesso ministro del tesoro italiano Tremonti, che fino a un annetto e mezzo fa, diciamo fino all'inizio della crisi finanziaria, della recessione, indugiava spesso su questo argomento, dazi e quant'altro contro la Cina, in realtà ha cambiato radicalmente tono, accorgendosi della necessità di aprire un confronto che non è all'insegna, diciamo, della durezza, no? Della reazione un po' neoprotezionistica. Ben inteso, l'Europa deve anche mettere i dati quando e laddove vanno messi, ma nulla toglie il problema. No, ma un conto è la reciprocità, cioè i cinesi ancora applicano dei dazi su dei nostri prodotti, dico nostri come europei, e lì è inammissibile che vengano posti dei dazi in Cina, o perlomeno se li pongono loro dobbiamo porli anche noi. Altra cosa è storcere il naso, finiremo comprati dai cinesi. Posso fare una battuta provocatoria? Magari ci comprassero i cinesi, magari ci comprasse qualcuno, perché qua investimenti stranieri in Italia non se ne vedono. Per cui prima ogni tanto di scrivere, cercate anche di riflettere, dico ad alcuni ascoltatori, perché veramente mi sembra di parlare con persone ogni tanto che non hanno visto le dinamiche. No, e poi rispondo: non ho parenti cinesi, perlomeno che io sappia, ecco, mettiamola così. Antonio Bogliasoni, bene, il collocamento dei 5 miliardi, oggi l'Europa ha collocato 5 miliardi di obbligazioni, che sono una mezza manovra finanziaria, per salvare l'Irlanda. Come è andato il collocamento? Neanche un'ora ci ha messo, no? Beh sì, ma anche meno, sembra molto meno di un'ora, è stato un successo. Qualcuno dice che è stato un successo annunciato, sta di fatto che la prima emissione di Eurobond, naturalmente si tratta di un'emissione che è fatta dalla Unione Europea attraverso la Commissione Europea, attraverso il meccanismo di stabilità finanziaria, nulla a che vedere, diciamo, e questo è il braccio comunitario. Poi c'è il braccio dei prestiti dei governi, quel fondo di stabilità finanziaria sulla base della garanzia governativa, che dovrà fare la propria emissione a fine mese. Il fatto che questa emissione della comunitaria sia andata a buon fine, a un tasso insomma, che sarà attorno al 2,50, fa ben sperare sulle successive emissioni. Per quest'anno la Commissione Europea dovrà rastrellare 17 miliardi di euro, 17,6 miliardi di euro, nel 2012 fino a quasi 5 miliardi di euro, mentre l'altro fondo di stabilità finanziaria, quello garantito dai governi per intenderci, quest'anno potrà rastrellare fino a 16,5 miliardi e l'anno prossimo fino a 10 miliardi di euro. Questa massa di miliardi si aggiunge alla massa di miliardi che devono essere trovati sul mercato dai singoli stati, quindi con rischi di strozzatura del mercato. A questo proposito è importantissimo che a fine novembre l'Eurogruppo abbia deciso di armonizzare, di concordare il calendario delle emissioni per evitare effetti e per evitare che ci si faccia la guerra l'un lato sul mercato, sostanzialmente. Sì, questo è il tema delicatissimo. Una cosa ancora mi preoccupa, poi perdo un po' di perderò un po' di tempo forse con delle risposte agli ascoltatori, ma va bene così. Oggi, al di là del collocamento dei 5 miliardi, sono ripartiti gli spread, per usare un termine tecnico, cioè le differenze tra quanto rende il paese affidabile alla Germania e quanto rende invece prestare soldi a un paese poco affidabile come il Portogallo. Non solo il Portogallo deve offrire un punto e mezzo in più, che è tantissimo, ma la Grecia di nuovo ai massimi. Come si giustifica? Cioè, voglio dire, in maniera ancora più semplice, si sta apparecchiando la tavola per una nuova buffata di speculazione sui debiti europei, che a questo punto colpirà inesorabilmente anche Portogallo e Spagna, oppure no e andiamo verso la Quaresima? Beh, insomma, la crisi, siamo in Quaresima e ci resteremo per un pezzo. Cioè, la crisi non è finita. I rischi per Spagna e Portogallo ci sono, tanto che sul finire dell'anno il presidente del gruppo, il lussemburghese Juncker, ha ricordato subito dopo il vertice europeo, ha ricordato che comunque per gennaio, per inizio 2011 c'è da aspettarsi, bisogna aspettarsi nuove decisioni di aiuti finanziari in qualche forma, senza specificarli. Quindi la crisi è pienamente in atto. Scusate. All'aumento degli spread dovremmo abituarci, se poi c'è poco da fare. Nelle prossime settimane si ballerà ancora parecchio, perché il quadro non è affatto certo. E magari lo stabilizzerà la Cina, che vedo che i soldi dei cinesi però puzzano, i soldi degli arabi no, dei libici no, degli americani no, però quando si parla dei cinesi vedo moltissimi messaggi contrari. Allora, ringraziando Antonio Poli Salimbeni in collegamento con noi da Bruxelles, do qualche risposta agli SMS. Allora, scrivono molti, insomma, lei è fuori di testa, se i cinesi comprano le aziende italiane, che fine pensa potranno fare i diritti dei lavoratori? Abbiamo sempre difeso i diritti dei lavoratori, però vorrei difendere anche i lavoratori, non solo i loro diritti, perché qua, se non arrivano investimenti, se il sistema non riparte, il problema non sono i diritti dei lavoratori, ma sono i lavoratori tout court, come mi sembra che Marchionne abbia spiegato molto molto bene, e noi a Marchionne abbiamo sempre dato ragione. Primum vivere, prima vivere, sopravvivere. Con orari meno flessibili, sicuramente più svantaggiati, è vero, ma intanto sopravvivi. E questa è anche la risposta che a chi dice, beh, piuttosto che lavorare per i cinesi, meglio essere col culo per terra ma con l'orgoglio alto. Bah, eccolo qua, preferisco avere il culo per terra che diventare schiavo. Devi spiegarlo poi ai tuoi figli che non gli porti la pagnotta a casa, eh? Io su questo vedo molto molto ideologismo. A me basterebbe che ci fosse maggior mercato del lavoro, maggior merito nel paese, un'economia che cresce, nessuno vive solo per il PIL. Siamo d'accordo che la Cina non sia una democrazia, l'abbiamo detto mille volte, ma e siamo anche d'accordo, oddio, l'India lo è, per cui l'obiezione non vale per l'India. Il problema è che in questo momento è la Cina che sta dettando i modelli futuri su cui competere. Vogliamo o non vogliamo prenderne atto? E con questo che ti confronti ancora? Non dobbiamo vendere, dobbiamo tenere stretto l'agroalimentare, giustissimo, è uno dei nostri settori di punta. Magari se Cragnotti non si fosse mangiato l'acirio del monte e Tanzi non si fosse mangiato la Parmalat, avremmo anche qualche azienda in più per competere nel settore agroalimentare. Se avessimo qualche catena distributiva in più, se non avessimo più, o se avessimo ancora qualche catena alberghiera e non fossimo l'unico paese in Europa che non ha una grande catena alberghiera, forse ce la giocheremo un po' meglio. Commentiamo la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Io non so, magari perché siamo qui a lavorare, anche chi mi ascolta, e molti nostri amici sono in vacanza, che c'è tutta questa rabbia nei confronti della Cina. Non vi dico i messaggi, va bene, il programma è aperto ai messaggi anche per ricevere critiche. Allora, mi piacerebbe proprio che Radio 24 venisse comprata dai cinesi, così poi sentiamo come parla. Guardi, posso dire una cosa, a me basterebbe che Radio 24 comprano i cinesi ci mettessero i soldi e per lanciarlo ulteriormente, per stare sul mercato, per fare iniziative, cioè perché deve interessarmi l'odore, il colore dei soldi? Perché? Cioè, a meno che non siano soldi illegali. Ancora, dunque, vada in un centro massaggi cinese, non la vedo come un'offesa, ma insomma, chieda se fanno ferie, se hanno diritti. Quando, allora, i diritti non è che vengono fatti saltare dal compratore, cioè se un fondo di private equity, un fondo sovrano di Singapore, di Abu Dhabi, cinese, comprano il 50%, non può uscire da quello che è la cornice legislativa del paese. Attenzione, siamo in Europa, non avete paura dell'invasione cinese. Su questo ancora meglio chi scrive dice, beh, piuttosto che essere schiavo dei cinesi, meglio affamare e uccidere i propri figli. E chi sei, Medea? Non lo so, io. Vabbè, poi quella più gettonate, attenzione che fra un po' ti mettono un bel cinese al microfono. Vabbè, e qual è il problema? Siamo in concorrenza, mamma mia. Allora, lo so che l'economia protetta serve, ma l'economia protetta era quella sovietica, non era quella del libero mercato. Cioè la concorrenza, il libero mercato non può esistere, lo dico a chi scrive, solo quando siamo noi a vendere Made in Italy fuori, e finché eravamo noi a vendere, e tuttora lo facciamo, abbiamo il miglior export in Europa dopo la Germania, allora lì va bene. Se però i capitali sono cinesi non va più bene. Chi ce li ha i capitali in sto paese? Lei non deve essere così pessimista mentre mezza Italia è in ferie. Io non sono assolutamente pessimista, infatti commentiamo la borsa. Va bene, tutto guelfi ghibellini, Inter contro Milan, Roma contro Lazio, non si riesce mai a ragionare ogni tanto come se noi potessimo poi decidere i destini dell'economia del ventunesimo secolo. Non ce la fa l'America, come che lo faccia l'Italietta. Allora, la borsa invariata: Milano, Parigi meno 0,30, Francoforte mezzo punto percentuale di calo, Londra invece più 0,40, l'euro un po' in indebolimento, ma insomma 1,31,50, di nuovo Fiat auto, molto bene, più 2%, di nuovo invece in calo Fiat camion e trattori, ossia industrial, meno 1,30%. Eleonora Micheli, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E buon anno. Buon anno a tutti. Allora, va bene così. No, vedo ancora molti messaggi, poi torneremo sui cinesi. Dicevo, Fiat Industrial e Fiat SPA, Fiat Auto, oggi è arrivato anche il voto di Moody's, ma insomma ormai l'andamento inizia a essere divergente in maniera evidente, già ieri, ma insomma oggi è un'ulteriore conferma. Sì, esatto. Va detto che questa mattina anche Fiat Spa, cioè la Fiat che contiene praticamente i marchi dell'auto, era partita sotto la pressione dei realizzi e quindi in ribasso. D'altra parte nel primo pomeriggio ha di nuovo invertito rotta, ha iniziato a guadagnare punti e ha chiuso con un più 2%. I motivi sono che sono stati pubblicati innanzitutto i dati sulle immatricolazioni brasiliane, che a dicembre sono balzate per il gruppo del 30% e il gruppo si è confermato leader nel mercato brasiliano. E poi soprattutto continuano a circolare ipotesi che nel corso dei prossimi mesi, sicuramente del 2011, si affacciano all'orizzonte operazioni straordinarie tra Fiat e possibilmente Chrysler, la società americana della quale adesso Fiat detiene una quota del 20%, ma che dovrebbe salire al 35% rispettando certe condizioni, poi un'opzione per salire ulteriormente al 16%, quindi oltre la maggioranza. Tutte appunto ipotesi che finiscono per sostenere gli ordini in acquisto su Fiat. Allora, ancora, nel frattempo vedo che Atene è scesa ai livelli del 1997, meno 1,6%, attenzione di nuovo oggi, tensioni su Atene, e oltre che sugli spread. Ancora, poi do un po' di risposte, anche sull'ipotesi che conduca Focus Economia un cinese a 1000 euro, a metà del mio stipendio, va bene, adesso daremo una risposta anche su questo. Andiamo sui titoli: Buzzi Unice meno 3%, Bulgari meno 2,60, Intesa meno 1,80, oggi Intesa ha sofferto più di altri, meno 1,80%, mentre Unicredit ha perso lo 0,7, il Banco Popolare lo 0,8, la Popolare di Milano meno 0,90%. Telecom come miglior titolo, più 3,4%. Per cento, tra l'altro recuperando la soglia tecnica dell'euro per azione, se ho ben visto. Esatto, un euro sopra la quale non chiudeva all'incirca dal 20 di novembre, quindi da diversi mesi. Sì, Telecom ha recuperato assolutamente punti, nel pomeriggio ha allungato il passo, si è iniziato a fare un po' di confronti con le quotazioni internazionali di altre compagnie. Oggi comunque è andato bene tutto il settore delle TLC europee, però a dare là gli ordini in acquisto è stata la notizia che Orascom Telecom, una società del gruppo della famiglia egiziana Sawiris, ha ceduto il 50% di un'azienda di TLC tunisiana a Qatar Telecom, e applicando i multipli che sono, con i quali è stata valutata tale società, emerge che Telecom Italia è assolutamente sottovalutata e quindi da lì si sono innescati una serie di ordini in acquisto che comunque, ripeto, hanno coinvolto un po' tutto il comparto delle TLC, che in Europa ha segnato oggi la miglior performance con un progresso complessivo dell'1%. Ancora vola Pininfarina anche oggi, tra l'altro oggi sospesa anche per eccesso di rialzo, non sono arrivate conferme, ma anche qui c'è l'ipotesi di un'offerta di acquisto in arrivo da parte, eccoci di nuovo, di un gruppo cinese, Bike. Sì, esatto, sono di nuovo i cinesi a entrare in scena, senza dubbio. Non piacciono agli ascoltatori, ma piacciono al mercato, perché in questo caso Pininfarina oggi è stata sospesa dalle contrattazioni, ha fatto più 21% e comunque in poche sedute, nelle tre sedute del 2011, ha registrato un progresso superiore al 30%. Ovviamente la società, sappiamo che è da tanto che ci si aspetta un'operazione straordinaria. Ieri la società ha confermato che è in una fase di raccolta di manifestazioni manifestazioni di interesse, chissà che siano i cinesi o siano di un'altra nazione, evidentemente il mercato comunque scommette che a breve ci siano novità. Ecco, ma magari se qualcuno è azionista di Pininfarina vorrei anche capire se gli va bene che il titolo cresca per un'offerta cinese del 21% oggi, oppure gli fa schifo e ha venduto in mattinata prima che il titolo salisse. Continuiamo, perché c'è anche ci sono anche altri titoli, ma soprattutto c'è il caso di Poltrona Frau, che ha guadagnato praticamente in tre sedute il 17%, P Quadro oggi molto bene 11%, prego. Sì, per quanto riguarda Poltrona Frau, in questo caso non sono i cinesi, è semplicemente la notizia che l'amministratore delegato Dario Rinero ha acquistato azioni per quasi 30.000 euro e quindi questo ha un po' riacceso i riflettori sulla società, qualcuno ha iniziato a pensare che magari sia sottovalutata e così da inizio anno in effetti i titoli continuano a marciare al rialzo. Anche per Quadro ci si attendono novità, tra l'altro di espansione in Asia del proprio business, e quindi poi sono comunque titoli molto sottili per cui è facile movimentarli. Sì, vi anticipo che avremo un'intervista a breve con il proprietario fondatore di P Quadro per un'operazione bellissima, lo dico senza nessuna retorica, cioè sono stati utilizzati alcuni bambini con la sindrome di Down per disegnare le borse, è stato un successo incredibile, magari domani che è anche la vigilia dell'Epifania, anzi l'Epifania, potremmo avere un'intervista con lui, perché è una storia molto bella e non è una storia di pietismo e di beneficenza, è una storia in cui si unisce la comprensione verso il diverso e anche poi quello che è il perseguimento del fine aziendale. Chiudiamo ancora su alcuni titoli. ST Microelectronics bene, sale ai livelli massimi dal settembre 2008, da prima del crack della Lehman Brothers, e anche oggi guadagna il 2,42%. Sì, in questo caso le notizie che fanno bene a ST provengono invece dalla Corea, in particolare... No, la Corea è asiatica anche quella, come la Cina, non la vogliamo. Sì, comunque appunto la società coreana Samsung ha fornito indicazioni molto positive per il 2011, che hanno fatto bene ovviamente anche a ST e un po' a tutto il comparto dei chips. In particolare l'azienda coreana ha detto che è pronta a investire oltre 38 miliardi di dollari nel 2011 per aumentare la propria presenza nel mondo e consolidarsi su diversi mercati. Poi bisogna capire però se la Samsung investisse in Italia, siccome è coreana forse non la vorremmo, meglio tenersi i non capitali italiani che i capitali sani coreani, e così ti ho fatto anche la rima baciata, no? Rispondo ad alcuni ascoltatori in delirio ideologico. Andiamo avanti. Diasorin, che succede a Diasorin? Più 3,22, ho capito che ha debuttato su S&P MIB, ma alla faccia del debutto, più 3,22. Più 3,22 oggi, d'altra parte nei giorni precedenti era andata male, i titoli avevano registrato una certa debolezza, quindi si può parlare di recupero tecnico. Ancora bene Eni più 1,3, Ubi più 1%, Luxottica più 1, Fiat più 2%, ST Microelectronics più 2,40, Tenaris più 0,90, male invece oltre ai titoli citati Bulgari meno 2,60 e poi Pirelli meno 1,5, Enel meno 1, le banche le abbiamo già date, Mediaset meno 0,80%. Grazie allora Michele, Radio Colli, Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Allora, tra i vari messaggi ce n'è uno che dice: non è male, ma dove lavori? A Radio 23? È ripartita l'inflazione, te ne sei accorto? Sì, ce ne siamo accorti, abbiamo fatto un approfondimento ieri con scheda e intervista proprio sull'inflazione. Ancora sui capitali cinesi, non ce la faccio più oggi con i capitali cinesi, prendiamone atto. La Cina supererà il Giappone quest'anno a livello di PIL per produzione di auto, è così che va il mondo. A noi ci ha detto bene negli anni 80 e 90, adesso bisogna trovare altri modelli produttivi, in altro modo non so mettere. Chi vi racconta cose diverse, millanta analisi in realtà non reali. C'è invece un tema che ci interessa ed è la protezione del Made in Italy, lo seguiamo da anni. La notizia e la vicenda che stiamo per commentare non avrà una rilevanza enorme da un punto di vista economico, perché riguarda il vetro di Murano, 2000 dipendenti, 150 milioni di fatturato, però ne ha una da un punto di vista giuridico, perché c'è una sentenza in cui si va a colpire non solo chi produce il falso, ma anche chi lo commercializza. Allora parliamo una volta tanto di Venezia e di un prodotto come quello del vetro di Murano. I numeri sono impressionanti, ma intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato il presidente della sezione vetro di Confindustria Venezia, Diego Ferro, buonasera. Buonasera a tutti. E buon anno. E dall'altro uno dei massimi esperti di brevetti e copyright, adesso capiremo perché, l'avvocato Fabio Brusa. Buonasera e buon anno anche a lei. Buonasera. Allora, dicevo, immaginate la concorrenza cinese. Se io vi dicessi che 2 su 3, praticamente 70, anzi 3 su 4, il 75% degli oggetti in vetro che vengono venduti a Venezia, dalle gondole a oggetti anche un po' più eleganti e meno kitsch, non sono prodotti a Murano, già ci capiremmo sul problema. Sono importati dall'estero o in alcuni casi da altre regioni d'Italia. E anche qui la concorrenza cinese, manco a farla apposta, si sente. Pensate che i cinesi sono capaci di produrre in un tempo che va dai 5 ai 7 secondi una tazzina in vetro che a Murano richiede a un maestro vetraio almeno 20 minuti. È chiaro che non c'è concorrenza. La copia cinese di un lampadario in stile veneziano costa sui 100 euro, l'originale, quello fabbricato col vetro soffiato a Murano, sui 2000 euro. Lo dico perché è chiaro che la guerra non può essere combattuta sul fronte del prezzo. In un distretto che, presidente Ferro, che giro d'affari ha e quanti addetti ha nell'isola di Murano, ma non solo, presidente? Allora, diciamo che il giro d'affari è attorno ai 150 milioni di euro di fatturato e il numero di addetti complessivo attorno ai 2000. Oltre, come dicevo io, però anche l'immagine stessa, al di là del valore e dei volumi che ha il vetro di Murano. Perché ne parliamo però? Perché c'è una nuova sentenza che va a punire non solo chi copia il vetro, ma anche, se ho ben capito, chi lo vende. Intanto ricordo che lo scorso 25 giugno a Venezia la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 11 milioni di articoli fatti passare come vetri di Murano, ma made in China. Praticamente erano fabbricati in Cina, ponevano etichette che dicevano prodotto Murano, addirittura con il marchio Murano Glass, e tre le aziende coinvolte con un 50% di costo in meno. Però questo è un classico caso di contraffazione illegale, Brusa. Che cosa è successo invece nella sentenza del Tribunale di Milano? Ce la racconti? Sì, in effetti il caso che lei citava di giugno, come tanti altri che si sono susseguiti anche durante tutto il 2010, sono casi di sequestri e poi condotte penalmente rilevanti, quindi le sentenze che ne sono conseguite sono di tipo penale. A Milano invece la sentenza si situa su un livello civilistico. E questa forse è una delle prime novità, nel senso che il consorzio Promovetro e anche la Camera di Commercio di Venezia si sono mosse a tutela di interessi che sono dei produttori di Murano. Secondo me questa è un po' la strada che devono perseguire tutti quei comparti produttivi che intendono proteggere la qualità del proprio prodotto. Ecco, adesso ci arriviamo. Allora, cosa è successo? Che nel 2007 esce un prodotto editoriale da collezionismo della Fabri Editore, mi dispiace fare il nome ma è la parte in causa, che si chiamava Boccette d'arte di Murano, con un gadget, come spesso avviene in questi casi, in edicola, allegato. Era un vetro generico di pura imitazione del prodotto tipico muranese. Allora, la condanna della Fabri Editore, al di là del valore economico, 50.000 euro di risarcimento, che cosa innova, avvocato? Non condanna solo il produttore, se ho ben capito? Sì, beh, ma credo che il contenuto, da questo punto di vista di merito, più innovativo stia nel fatto che su un piano civilistico è stato condannato non solo un soggetto che spacciava per vetro di Murano in senso proprio un prodotto che non lo era, ma anche chi svolgeva un'attività pubblicitaria, intendo dire, con un contenuto ingannevole, e cioè chi faceva intendere che il vetro, che il prodotto potesse essere di Murano, perché se io dico boccette d'arte di Murano, formalmente non dico che è stato fatto a Murano, però faccio intendere sicuramente questo, anzi l'obiettivo è quello di far credere che il prodotto corrisponda a quelle caratteristiche tipiche qualitative del vetro soffiato di Murano. Ecco, mi faccia capire una cosa, avvocato Brusa, ma questo potrebbe essere esteso poi anche a chi vende i falsi pezzi di Murano, o meglio, non dico contraffatti, però se in un negozio con che si chiama, non so, antichi vetri di Murano, io poi ho l'80-90% di vetri fatti in Cina, pur non scrivendo chiaramente made in Murano, Murano Glass, perché quella sarebbe contraffazione bella e buona, però potrei essere passibile di, alla luce di questa sentenza, di avere avuto una condotta ingannevole? Certo, potrebbe essere passibile sia dal punto di vista penale che da quello civilistico, perché poi in realtà le condotte ingannevoli sono plurime, perché come dice giustamente lei, se io metto in vendita pochissimi prodotti, chiamiamoli tipici, nascosti e confusi fra tanti altri invece copiati di imitazione, è un'altra fattispecie di ingannevolezza che può essere sanzionata tendenzialmente sia a livello penalistico, con delle sanzioni penali che sono diventate molto più gravi ultimamente, ci sono state le modifiche dell'apparato sanzionatorio, o anche a livello civilistico, e lì sono appunto gli enti di tutela come Promovetro che si muovono, o anche il negoziante che sta a 50 metri più avanti e che non intende sopportare un comportamento concorrenziale di tipo sleale. Quindi attenzione, non stiamo parlando, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, della contraffazione come reato classico, cioè scrivere Murano Glass su una cosa che fate in Cina, ma anche di chi commercializza beni realizzati in luoghi differenti, però li commercializza con modalità tali da indicare o anche solo suggerire che provengano da Murano. Faccio l'esempio: se non avessi un negozio pieno di foto di Venezia con oggetti tipicamente veneziani, poi pieno di vetri cinesi, pur non avendo scritto Murano Glass, se ho ben capito, avvocato, potremmo arrivare vicino alla fattispecie. Dal punto di vista civilistico direi di sì, lei poi può pensare, può immaginare che anche lo stile è rilevante, nel senso che ci sono dei colori tipici, no? Certo. E poi ci sono degli stilemi anche di design, che è chiaro che quando un imprenditore prende una certa strada come stile, colore, design, o è una strada autonoma e vuol far valere la propria creatività, oppure è una strada pedissequa e imitativa. Mm-mm. Quindi nel negozio dove ci sono richiami di tutti i generi a Venezia, come dice lei, e dove magari campeggia una scritta Murano Glass come insegna, il fatto che ci siano dei prodotti che riecheggiano lo stile dei vetri di Murano, seppur senza nessuna indicazione, è un comportamento che potrebbe essere sanzionato, per esempio, per concorrenza sleale. Forse l'aspetto penalistico è più faticoso ricostruirlo, ma dal punto di vista civilistico sì. Ecco, di questo vorrei continuare a parlare dopo il GR. Due risposte brevissime. Attenzione, chi è stato condannato è una società italiana. Chi vende tre quarti di prodotti di vetro che sono fabbricati altrove sono italiani, li produrranno anche i cinesi, ma chi ci guadagna sono italiani. Attenzione, non sono i cinesi a vendere roba finta di Murano e guadagnarci, basta. Loro la producono, noi la vendiamo. E infine a chi dice, ma se arrivasse un cinese in grado di condurre Focus Economia a 1000 euro al mese, farebbe bene sulle 24 ore mandarmi via, perché voglio dire, se conduce male o bene come me e costa la metà di me, ma perché mi deve tenere? Mica è scritto sulle tavole della legge, no? Lo stipendio. Vabbè, GR, poi torniamo. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, per concludere questo approfondimento su un caso simbolo. E poi torniamo a parlare anche di Cina. Mi piace l'esempio, dice va bene, ma se arrivasse un cinese al posto suo, ma si spacciasse per lei come nome, quello sarebbe un reato. Infatti noi stiamo ragionando dei capitali cinesi, degli investimenti cinesi, della Cina che si sta comprando il debito europeo, cioè il nostro debito, ci sta finanziando il 7% del debito europeo in mano ai cinesi, 640 miliardi, e in maniera legale. Siamo da sempre contro contraffazioni, falsi, e non a caso stiamo parlando proprio delle iniziative prese da Murano, dal consorzio di promozione per tutelare il vetro di Murano. E a questo proposito vorrei chiedere al presidente della sezione vetro di Confindustria Venezia, Diego Ferro, insomma, quali sono le altre iniziative che avete messo in campo? Perché l'avvocato Bruso ci ha fatto capire l'importanza di questa sentenza, si va a punire anche il commerciante che fa sembrare il vetro di Murano, anche se non c'è scritto Murano sopra, quindi non c'è contraffazione, ma crea chiaramente e dà una informazione scorretta. Però insomma, non si può combattere la concorrenza cinese solo in trincea, Ferro. Ma noi diciamo abbiamo iniziato il nostro lavoro di Confindustria Venezia con diciamo l'ultimo direttivo da settembre, circa fine settembre, e abbiamo già messo sul tavolo dei temi molto importanti per Murano, partendo dal punto di vista diciamo di come combattere questo fenomeno della contraffazione. Si potrebbe dire che noi stiamo presentando un progetto di marketing che verrà presentato entro il mese di gennaio per il rilancio dell'immagine di Confindustria Venezia e del vetro stesso di Murano. Quindi secondo me, a parte diciamo questi interventi per diciamo evitare queste vendite sleali, bisogna diciamo operare per aumentare il valore aggiunto del nostro prodotto. Ecco, citavo la cassa integrazione, a che punto siamo? Perché voi già nel 2009 avevate avuto qualche azienda in difficoltà, il 2010 come si è chiuso? Allora, cassa integrazione, la situazione diciamo attuale o diciamo degli ultimi mesi dell'anno, novembre diciamo del 2010, avevamo tre aziende in cassa integrazione ordinaria con una quarantina di dipendenti, avevamo cinque aziende in cassa integrazione straordinaria con 182 dipendenti. E diciamo che per gennaio la situazione dovrebbe più o meno mantenersi inalterata: due aziende in cassa integrazione ordinaria con 50 dipendenti e cinque aziende sempre in cassa integrazione straordinaria. Sì, poi c'è la difficoltà del nome storico, uno dei marchi più importanti, Venini, che tra l'altro quest'anno celebra i 90 anni di attività, ha avviato la procedura di mobilità per 29 dei 92 dipendenti, ci sono state due ore di estensione di sciopero lo scorso 19 dicembre. Sta puntando anche la Venini a mercati nuovi come la Cina, addirittura tre negozi aperti in joint venture, uno dei quali con il museo proprio del vetro di Shanghai. Però per concludere, Presidente Ferro, le iniziative vostre devono essere a promozione oltre che tutela del marchio, cioè la tutela la fai con gli avvocati e con le corti di giustizia, la promozione la fai col marketing però. Esattamente, promozione come ho detto prima con la presentazione di questo progetto che sarà molto interessante, che entro il mese di gennaio verrà presentato, oltre ad altri temi che stiamo portando avanti come tema molto importante dei costi, per esempio nuove forme di approvvigionamento del metano, energia elettrica, nuove possibilità logistica usando un nuovo polo scambio merci in zona aeroportuale. Abbiamo aperto un tavolo con i sindacati per il riordino del contratto di lavoro, apriremo presto un tavolo con gli assessori comunali per velocizzare i tempi delle procedure burocratiche che sono un po' penalizzando in questo momento. Ecco, questo è quello che stiamo portando avanti come Confindustria Venezia, sezione vetro, e siamo convinti di riuscire a portare a casa dei buoni risultati. Ecco. Allora, in bocca al lupo a tutti, innanzitutto ai 2000 lavoratori, perché insomma le parti di Confindustria sono 27 aziende, però complessivamente nell'area di Murano, lo dico anche a chi ce lo chiede, gli artigiani sono 600 e le imprese complessivamente sono 260, di cui 27 di carattere industriale. In bocca al lupo a tutti i 2000 dipendenti, ai 2000 lavoratori, ai 600 artigiani. Grazie intanto anche al presidente della sezione vetro di Confindustria Venezia, Diego Ferro, e all'avvocato Fabio Brusa. Arrivederci. Come si è cambiata, su mi te spo, festa di appante gara. Ma sì, dai, un po' di pittura fresca, così andiamo a chiudere in bellezza, visto un avvio tutto in salita, con moltissimi ascoltatori che si sono arrabbiati. E dicono, vabbè, arriverà un altro che condurrà, un cinese che condurrà Focus Economia, si chiamerà Balisoni. Allora io non so, ripeto, se in maniera legale arrivasse un altro conduttore che non si spaccia per me, conduce meglio di me, costa la metà di me, io non capisco perché un'azienda dovrebbe tenermi a condurre. Poi però i prodotti cinesi, quando vengono marchiati Zara, H&M, costano poco, quelli li compriamo. Comunque, se dovesse arrivare questo conduttore cinese, io saprei già dove andare a lavorare. Andrei a lavorare nel miglior posto dove lavorare, the best place where to work. Ogni anno esce la classifica anche in Italia, e quindi andrei a lavorare nelle Marche, nella società di Fabriano, provincia di Ancona, che si chiama Elica. Il gruppo Elica produce cappe, è leader mondiale in termini di unità, di numero di cappe vendute, e a livello europeo leader in fatto di progettazione, 300 milioni di euro di fatturato, 2700 dipendenti, 16 milioni di pezzi di tracappe e motori, 9 siti produttivi, 4 in Italia, 1 in Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India e 1 anche in Cina. Allora, lì andrei a lavorare perché ha vinto appunto il premio Best Workplace 2011 del Great Place to Work. Non è detto che mi assumano però, e allora ecco perché, per proteggermi in futuro, abbiamo invitato il presidente di Elica, Francesco Casoli. Buonasera. Buonasera, buonasera Barisone, buonasera a tutti. Non le chiederò in diretta un'offerta di lavoro, né le mando il curriculum per ora, ma insomma... mi dica intanto come si fa a diventare il miglior posto dove lavorare, poi parliamo anche di Cina con lei, perché lei da un lato la soffre come concorrenza, potrebbe soffrirla, ma dall'altro vi ha aperto un impianto. Come si fa a diventare il miglior posto dove lavorare? In Italia c'era stata solo la Ferrari, se non ricordo male, prima di lei. Prego. Sì, ma come si fa? Si lavora, cioè si cerca di star vicino ai dipendenti in maniera costante e soprattutto... cercando di essere sempre coerente. Noi non abbiamo passato chiaramente con questa crisi dei momenti sempre allegri, però lo abbiamo fatto sempre guardando in faccia i nostri dipendenti, cercando di far capire le cose che devono essere fatte, cercando di far capire le decisioni, anche quelle difficili da prendere. E guardate, prendere un premio come questo, che noi, a me personalmente mi ha dato un grande orgoglio veramente, perché sono i dipendenti che votano questa cosa, ecco, prenderlo in un momento così delicato, in un momento di grande cambiamento, lei ha parlato della Cina, ma c'è anche la Polonia, c'è anche l'India, quindi in un momento in cui la nostra azienda si sta proiettando veramente all'esterno dell'Italia, ecco, prendere questo premio votato dai dipendenti italiani sicuramente ci dà un gran piacere. Ecco, dopo il traffico vorrei capire poi concretamente quali sono anche i fattori che vengono considerati per stabilire che un posto è il miglior posto dove lavorare, poi capire appunto come si fa a non subire il mutamento anche quando non piace, e in qualche modo reagire, accettare la sfida. Voi avete aperto anche in Cina oltre che in India, cosa ne pensa lei del rischio di invasione di investitori cinesi? Io questo rischio non lo vedo, purtroppo. E visto che però lei fa anche il senatore per il Popolo della Libertà, che cosa, diciamo, si può attendere dal governo di cui lei, che lei appunto sostiene come senatore del PDL? 349-238-6666 per i vostri sms, tra un minuto le risposte. Focus Economia. Allora, Francesco Casoli, quali sono le valutazioni che sono state espresse per poi trasformare e far ottenere a Elica il premio del miglior posto dove lavorare? Ma le valutazioni, guarda, sono chiaramente molto personali. Noi puntiamo tantissimo sui nostri dipendenti, abbiamo fatto una serie di programmi, ma da tanto tempo, parliamo di programmi che alle volte sembrano anche fuori dal normale, dal normale sentire economico delle aziende. Noi facciamo un corso d'arte per tutti i nostri dipendenti che ha una durata annuale. Diamo la possibilità ai figli di tutti quanti i nostri dipendenti di passare una settimana all'anno in Inghilterra o a Malta per imparare l'inglese. Però volevo precisare una cosa: noi facciamo tutte queste cose non perché perché ci piace poi vincere i premi. Beh, lo facciamo, e te lo dico, e lo dico in maniera diretta, lo facciamo perché conviene. Perché vivere in un'azienda, noi viviamo a Fabriano in provincia di Ancona, e quindi un posto abbastanza remoto, ecco, essere attraenti, poter pensare di poter assumere anche Stefano Barisoni quando sarà licenziato perché arriverà il cinese, è il fratello di Sebastiano a caso lì? Stefano. È il fratello di Sebastiano, esattamente. E per noi è chiaramente molto importante, noi questo è quello che puntiamo, noi puntiamo di attrarre e trattenere i talenti. Ecco, questo è il tema delicatissimo, perché noi abbiamo avuto ospiti anche, Brunello Cucinelli, voi direte è comodo, attenzione però, comodo niente, un paio di niente, riuscire a essere leader mondiale nel Kashmir e fregarsene dei cinesi per la soddisfazione dei tuoi dipendenti. Mirko Gasparotto, altro personaggio che anche lui tutto punta sulla remunerazione anche, diciamo, non solo economica, anche economica, ma dei suoi dipendenti. Avremo a breve il proprietario di P-Quadro. Cioè, i casi di successo, Casoli, hanno più o meno sempre questa caratteristica. Non si investe solo in macchinari, certo che si investe in macchinari, in marketing, certo, ma si cerca anche di far concorrenza ai cinesi laddove loro non ci arrivano. E per esempio no, sull'intelligenza. Sulla passione. Sì, però guardate, è sempre quella, la parola è sempre quella, la passione. Noi dobbiamo cercare di tirar fuori da tutti i nostri dipendenti, tutti, a partire dagli operai per arrivare ai dirigenti, la passione, che è difficile, anzi devo dire che è sicuramente molto più difficile tirarla fuori da chi poi deve stare 8 ore al giorno in linea di produzione, però è lì che vinci la gara. È lì che riesci veramente poi a essere competitivo in giro per il mondo, perché competitivo non significa essere il più economico, significa essere il più efficiente, il più efficace, significa essere quello più veloce. Quindi la competitività non è economicità, attenzione, non cerchiamo di non confondere i due piani. Sì, che devo dire che forse è anche una delle critiche, noi abbiamo sempre difeso la scelta di Marchionne in questo periodo, ma una critica che si può fare, dire bene, attenzione, non è solo con e sul costo del lavoro, per quanto importante sia, che riesce a costruire la produttività della Fiat, devi anche fare i modelli e anche avere altre cose. Comunque non voglio allargare troppo il discorso, restiamo sulle dimensioni della media impresa italiana. Allora mi faccia capire una cosa, voi avete vinto il premio migliore impresa dove vivere, vorrei capire, ma lei la Cina le fa concorrenza perché i cinesi imitano le cappe italiane, quindi le rubano quote di mercato, oppure è un'opportunità, infatti lei è andato a aprire una fabbrica in Cina, oppure lei, terzo aspetto, è uno sfruttatore perché fa produrre le cappe in Cina dai cinesi in catena di montaggio sotto, anzi nei sottoscala, sotto i tavoli, e poi mette il marchio Made in Italy, Fabriano, Marche? Quale delle tre? Allora, no, allora, Barisoni, chiaramente magari i cinesi copiassero, come stanno facendo, tante cappe fatte dalla Elica. Perché? Perché se poi i cinesi incominciano ad apprezzare quel modo, quello stile, quel design, che non sarà mai quello della Elica, perché tornando alla Ferrari, che ha vinto come noi questo premio, la Ferrari rimane sempre la Ferrari. E anche se in giro cerca qualcuno di scimmiottarla, poi alla fine l'elite, quella che vuole comprarsi il supermodello, si compra la Ferrari. Noi è quello che stiamo facendo, noi non abbiamo aperto uno stabilimento in Cina, noi abbiamo comprato un nostro concorrente. Oh, avete voi comprato un cinese? Sì, noi ci siamo comprati un cinese, e quindi questo concorrente aveva la sua bella rete di distribuzione, i suoi bei 600 dipendenti, che ora sono diventati 600 dipendenti dell'Elica, che speriamo diventino presto anche molto contenti di esserlo, nel senso che vorremmo vincere anche lì un bel premio The Great Place to Work. Comunque, a parte questo, noi vediamo nella Cina un concreto mercato, tant'è che veramente abbiamo abbiamo comprato una rete di distribuzione, quindi abbiamo comprato una piccola Elica cinese che viveva in questo mercato, che aveva i suoi modelli e da cui stiamo prendendo un sacco di idee. Cioè state facendo voi cinesi dei cinesi? State rubando le idee cinesi? Assolutamente, assolutamente sì. Ma guarda, se noi riusciamo questa è stata finora la nostra forza, diventare messicani in Messico, polacchi in Polonia, cinesi in Cina. Se pensiamo che noi siamo i più ganzi del mondo e che devono tutti quanti fare quello che facciamo noi, allora difficilmente riusciremo ad essere competitivi in giro per questo splendido mercato che sta diventando sempre più globale, ma che ha sempre di più le proprie specificità. In ogni mercato ci sono delle usanze e le devi rispettare. Questo è quello che noi stiamo facendo in Cina come nel resto del mondo. Guardi, sarà perché siete tutti e due marchigiani, ma lei sta dicendo esattamente la stessa cosa che diceva Straffi, fondatore delle Wings, delle Fatine. Abbiamo fatto una puntata con lui il 24 dicembre, 2 miliardi il giro d'affari, unico caso italiano di successo nel mondo del cartoon a livello mondiale, e diceva attenzione, attenzione, l'importante è dare alle persone quello che loro vogliono, non pensare che siccome noi siamo italiani vi imponiamo il nostro gusto, la nostra borsa va bene lì. Ecco, quindi voi le Capelica le fate diverse secondo i vari paesi? Assolutamente, assolutamente. Noi considerate che un'azienda, noi siamo market leader mondiali in termini aspiranti, ma siamo pur sempre un'azienda piccola, lei ha citato i numeri, noi non siamo un'azienda da miliardi di euro di fatturato, però nel nostro piccolo facciamo 9.500 modelli di carte aspiranti. Lo facciamo perché? Perché gli americani hanno uno stile che è loro e noi sicuramente non andiamo a cambiarlo, magari lo miglioriamo un po', come i cinesi hanno il loro stile e anche lì cerchiamo di migliorarlo e dare quel tocco in più che noi riusciamo a fare, ma non metterci lì a dire bene, lì si vendono i prodotti che facciamo o lo stesso prodotto che viene fatto in Italia, oppure là ci mettiamo a produrre i prodotti uguali al mercato europeo per riportarli poi in Italia alla metà del prezzo. Non funziona così, così sì. Non funziona così, si spaccano gli equilibri. E non mi fa piacere che lo dica lei, Casoli, perché delle volte anche i nostri imprenditori pensano che siccome il prodotto ha avuto successo in Italia, in Europa, bisogna imporlo anche ai cinesi, o agli indiani, o ai brasiliani, o ai messicani. Un po' più di modestia e di nuovo la valigia in mano a chi non lo sta ancora facendo. Ah, un minuto per dirmi, visto che è senatore del PDL, però che cosa deve fare il governo, visto che le scenari sono globali, le dinamiche sono globali, i dazi non si possono mettere, sarebbe una follia, però un po' di politica industriale si può fare. Deve aprire i cordoni della borsa Tremonti? No, guardi, io quello che dico è che non è tanto quello che deve fare il governo per l'economia, ma quello che si può aspettare il governo dall'economia. Noi forse pensiamo che chi governa ha il potere di mandar bene o mandar male le cose. Attenzione, siamo in un sistema talmente grande, talmente indifferente dalle scelte politiche della giornata, Casini, Fini, Berlusconi o chi più ne ha più ne metta, per far sì che noi come governo, mi metto il cappello da senatore, possiamo decidere che quest'anno andrà tutto quanto bene. Magari bastassero i cordoni della borsa di Tremonti per far andare bene le cose. No, io penso che saranno gli imprenditori, saranno sempre di più gli imprenditori che dovranno, gli imprenditori e gli italiani che dovranno capire che la sfida si è fatta veramente globale e dobbiamo rincominciare a tirare fuori quegli attributi di cui lei parlava prima. Sono d'accordo con lei come imprenditore, basta che questo non voglia dire poi che la politica può non fare, però ho capito il suo ragionamento, grazie e complimenti, perché insomma dopo la Ferrari il gruppo Elica è la seconda azienda italiana che si becca il premio Best Workplace 2011. Grazie al presidente di Elica, Francesco Casoli. Voi per l'accoglienza che... Finché siamo italiani, ciao. Intervistiamo italiani. Viva Italia, anzi Forza Italia, ciao. Forza Italia nel finale, maledizione a Casoli. Me l'ha infilata lì nel finale. Allora, dunque, chiedono gli ascoltatori se arrivasse un conduttore cinese Balisoni, un conduttore cinese Cluciani a 1000 euro... Bravi come noi, io ho ripetuto, insomma, se ce n'è uno bravo o cattivo come noi, che costa la metà, nel caso tuo un decimo, perché no? Perché le dovrebbe tenere l'azienda? Giuseppe, la domanda la faccio io a te oggi. pur non avendo capito la domanda, perché stavi leggendo il giornale, diciamolo, diciamo chiaramente che stai leggendo il giornale. Temi i cinesi o non temi i cinesi? Anche a Radio 24. I cinesi a Radio 24 vengano pure, non c'è problema, siamo qui ad accogliere a braccia aperte. Sì, poi è tutto da vedere se un programma del genere lo fanno fare in Cina o a controllo cinese, magari. ma quello è un altro ragionamento. Fra poco la zanzara, i temi di oggi, che siamo in ritardo ancora con questi temi, sempre temi voglio. Lega, Berlusconi, e poi lo stesso Berlusconi che riciccia con i comunisti, il pericolo comunista in Italia, tra poco. Forse per quello che gli ascoltatori ci avevano con i cinesi. Grazie a Giuseppe Cruciani, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.